Credo felice, perché con la loro immersa felice, con la loro immersa silenzio, sono uscite tutte queste Sì, sentiamo. Del loro avanti. E la vita di Vittorio Rigoni è stata esemplare, soprattutto l'esemplare è stata la vita di Stanis e la vita di tre palestinesi che è stato ucciso, e credo che ci sia un accanimento proprio nei confronti di quegli esempi, di quei punti di riferimento che brillano nella resistenza palestinese, quello che ci sono accanimento nei confronti della resistenza più autentica, nei confronti della resistenza popolare, di quelle persone che sono riferimento per tutti i giovani, per il popolo palestinese che non può più di questa situazione e che vuole che tutto cambi e che anche tutta la politica cambi. Per cui noi chiediamo al nostro governo di uscire finalmente dal suo silenzio e alle istituzioni, compresa la provincia, che domani ospiterà una commemorazione, perché anche le nostre istituzioni nazionali, cittadine, si devono esprimere, devono uscire dal silenzio, appoggiare la richiesta di liberazione che viene dal popolo palestinese. Pronto? Sì, sentiamo bene, grazie. Sentite? Sì, sì, sì, benissimo. Ok. Io dico che Vittorio non è morto, perché lo vedo come un seme che cambia forma per far nascere tanti, tanti, tanti altri semi. In ognuno di noi nasce un Vittorio oggi. Tutti ci sentiamo Vittorio. Abbiamo sentito le dichiarazioni del più grande nel governo italiano dire: faremo di tutto per impedire la partenza di barche della flottiglia 2. Abbiamo assistito pochi giorni fa all'uccisione di Giuliano, una persona solidale col popolo palestinese, una persona che ha dedicato la propria vita a un campo profughi dove è stato fatto un massacro anni fa. L'uccisione di Vittorio fa parte di una politica atta a dimostrare che il popolo palestinese è un popolo di selvaggi. Invece stanotte è stato diffuso un filmato da un amico, compagno, fratello, sempre europeo di Vittorio, in cui dice, secondo lui, quali sono i mandanti. I mandanti sono quelli che hanno minacciato la vita di Vittorio durante tutto questo periodo. Il mandante è il regista, è lo stesso regista e mandante dell'uccisione di Giuliano, dell'uccisione di tanti, tanti giornalisti, sia in Palestina, sia in Iraq. E questo perché, uno, colpire il movimento di solidarietà internazionale col popolo palestinese. Secondo, utilizzare sempre la bestia nera, che io come musulmano non riconosco nella religione musulmana. È come quando all'improvviso sentiamo di un mostro chiamato Al-Qaeda. Adesso scopriamo che Al-Qaeda pure esiste a Gaza. Una cosa che per noi è assurda, e questo per colpire questo movimento di solidarietà, mostrare che i palestinesi sono barbari, che uccidono una persona, un fratello, un amico, un figlio. Abbiamo visto nel filmato diffuso stanotte dall'amico di Vittorio come veniva accolto Vittorio dalle persone di Gaza. Era uno di loro, era uno considerato uno che va al di là del palestinese medio, perché è uno che poteva godere di tutta la libertà che aveva, della bella vita che poteva avere qui. Invece no, ha deciso di rinchiudersi da anni insieme a gente messa sotto assedio, torturata e minacciata giornalmente, anche quando vanno a raccogliere gli ortaggi. Vittorio non è morto, siamo tutti Vittorio. A nome mio, a nome della comunità palestinese, esprimo tutto il mio dolore, tutto il mio rammarico, tutta la mia vicinanza alla famiglia di Vittorio, a tutti gli amici di Vittorio, a tutte le persone presenti qua. Negli occhi di ognuno, di ciascuno di voi, vedo Vittorio e lo sento dentro il mio cuore, perché Vittorio è uno di noi e vivrà per sempre nei nostri cuori. Alla mamma di Vittorio, agli amici di Vittorio, alla mamma di Vittorio dico che saremo noi, Vittorio, e quindi in ognuno di voi troverete un vostro figlio. Agli amici di Vittorio, in ognuno di noi troverete un amico che è Vittorio. Vittorio non morirà mai, perché rimarrà vivo dentro di noi. Grazie. Manolo, videogiornalista, che era sulla flottiglia e che fu arrestato dall'esercito israeliano e imprigionato in occasione tragica della morte di 9 pacifisti sulla nave Marmara. Vittorio era arrivato a Gaza su una di quelle barchette che provano da un po' di tempo a forzare il blocco. E l'ho conosciuto a Gaza quando abbiamo, immediatamente dopo Piombo Fuso, quando abbiamo cercato di raccontare per la RAI quello che succedeva. Non voglio tanto parlare di quello che poteva essere per me Vittorio, perché sarebbe inutile, però quello che ha presentato per tante persone con la sua capacità di comunicare, quello che mancherà tra le tante cose, insomma, che ci mancheranno di Vittorio è il suo occhio all'interno della striscia di Gaza, le sue testimonianze continue, che erano l'unica fonte che ci permetteva di avere un'idea di quello che stesse succedendo da dietro. In questi anni e anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, lasciava sempre con l'amaro in bocca l'indifferenza della maggior parte dei media italiani, e non solo, ovviamente parliamo di quello che ci succede vicino, e l'enfasi, per certi versi giusta, che si dà su delle tragedie che riguardano il popolo israeliano, e però invece questa cortina fumogena su quello che quotidianamente succede all'interno non solo della striscia di Gaza, ma in Cisgiordania. Quindi io adesso vedo giornali, ho letto cose di gente che si straccia le vesti per questa cosa, mi viene in mente un po' di rabbia, sapendo quanto non gliene è fregato un cazzo fino a ieri, fino a oggi, no? E questo, insomma, sarà veramente per noi un vuoto incolmabile che cercheremo di colmare per quanto possibile, non sarà mai allo stesso livello, però probabilmente quella che è stata la grande missione di Vittorio, a parte la sua capacità umana di restare umano nonostante quello che succedeva intorno, nonostante quello che quotidianamente si vedeva davanti agli occhi, era la sua capacità di raccontarlo, e noi cercheremo di raccontarlo. Mi viene in mente solo di c'era un sito, Stop ISM, che da un annetto e mezzo, insomma, minacciava e ha messo addirittura una taglia sulla vita di Vittorio. Qui apposta, quando parliamo di responsabili, possiamo solo dire che Vittorio è l'ultima vittima dell'occupazione, al di là di quelli che saranno poi le indagini, non si capirà cosa c'è stato veramente dietro, che giochi ci sono dietro, a chi giova questa cosa, a chi ha giovato, non certo al popolo palestinese, non certo a chi cerca di sollevare, apposta, di soffiare via questa cortina di fumo che annebbia, che confonde. Insomma, forse tra le tanti morti degli italiani, così è come muore in italiano, io si è sentito dire in occasioni, secondo me, rivoltanti, e forse questo è l'esempio più straordinario di abnegazione e di volontà di pace, di volontà di condivisione, e quindi penso che sia un esempio che deve essere per tutte e tutti noi un faro, e speriamo che siamo in grado, speriamo di essere all'altezza di continuare quello che stava facendo. Grazie. Marco, della Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese. Allora, io riprendo dalle ultime cose dette da Manolo, appunto per ribadire in maniera chiara e forte che per noi Vittorio è l'ennesima vittima di questa occupazione, in un tragico conteggio che quotidianamente siamo abituati a portare avanti rispetto alle uccisioni nella West Bank e a Gaza, appunto probabilmente è la 55esima vittima dall'inizio dell'anno all'interno della striscia di Gaza. Non ci interessa sapere chi è l'esecutore materiale di questo omicidio, sicuramente Vittorio è stato ammazzato per quello che rappresenta, perché era una voce fuori dal coro, che metteva in difficoltà la retorica dell'occupazione sionista e metteva in discussione i meccanismi che questa occupazione ha sviluppato all'interno della Striscia di Gaza. Quello che ci interessa fare, come diceva Manolo, è cercare di riempire il vuoto enorme che Vittorio lascia. Quindi quello che diciamo appunto che il silenzio, il governo italiano come gli altri governi del mondo continuano a tacere, continuano anzi non solo a tacere, ma a essere complici dell'occupazione israeliana e del quotidiano assedio di Gaza che continua indisturbato da diversi anni, dove 1,5 milioni di persone vivono in quella che è il più grande carcere a cielo aperto. Quello che vogliamo dire è che abbiamo intenzione di andare al più presto a Gaza per riprendere da dove Vittorio è stato fermato, per cercare di capire come continuare e portare avanti il lavoro prezioso che lui e tanti compagni e compagne palestinesi portano avanti quotidianamente, anche con l'appoggio degli internazionali. Questo chiaramente è un colpo che cerca anche di colpire la solidarietà internazionale ed è questo il momento in cui dobbiamo far sentire in maniera più forte la nostra voce. Quindi il governo adesso sa che delle persone vorranno andare a Gaza, si deve assumere la responsabilità di quello che succederà. Non ho molto altro da dire, anche perché appunto molto è stato già detto, preferisco lasciare la parola ad altri fratelli della comunità palestinese. Ha chiesto di intervenire Vincenzo Vita, deputato e presidente dell'associazione Italia-Palestina. No, e chiude lui. Ma poi chiudi tu. Allora. Ciao, sono Basel dal gruppo di giovani palestinesi in Italia. Credo che è stato detto di tutto su quello che è accaduto negli ultimi 30 ore. E oggi ci sentiamo ovviamente tristi, sì, ma nel frattempo siamo molto arrabbiati. Siamo molto arrabbiati per tutto quello che accade da 63 anni a queste parti sotto l'occupazione sionista. E quello che è accaduto per noi è vero che non è una novità, ma nel frattempo ci fa pensare perché nell'ultimo periodo stanno accadendo proprio questi accadimenti, rapimenti, ricatti, con questa situazione, quella che è le rivoluzioni nel Medio Oriente, con la situazione di Israele stesso in quanto uno stato sionista, razzista, di apartheid, che oggi si sente usulato evidentemente per quello che sta accadendo nel panorama medio orientale. E ci sta agendo anche, a questo mio parere, ci sta agendo anche in tutti i modi possibili per risistemare quello che è arrivato, quella che è la situazione in Medio Oriente. Perciò è vero, stiamo parlando oggi di Vittorio, e Vittorio ci manca molto, Vittorio ci lascerà un vuoto per quello che faceva per noi, per quello che scriveva tutti i giorni per noi da Gaza, per quello che accadeva. Vittorio era una persona molto coraggiosa. Vittorio oggi per noi è un grande esempio. Vittorio per noi è un grande dolore, ma è un dolore anche, direi che è uguale a come a ogni vittima palestinese sotto occupazione. E quindi quello che vogliamo dire oggi è: noi continueremo la nostra battaglia e la battaglia di Vittorio che ci ha lasciato nelle nostre mani, e credo che questa cosa qui dovrebbe piuttosto unirci ancora di più per lavorare sempre a fianco alle vittime palestinesi piuttosto, e per lavorare sempre di più per un mondo migliore, per denunciare tutti quegli assassini e genocidi che succedono in Palestina. L'altro giorno i grandi poteri hanno detto: noi faremo di tutto per impedire la partenza della Freedom Flotilla dall'Italia, e questo anche ci fa pensare. L'altro giorno, sono due stati due giorni fa. E quindi tutto questo, c'è dietro qualcosa che puzza in realtà, perché poi entro 30 ore è stato assassinato. Poi non è una cosa a cui siamo abituati nemmeno, nel senso che abbiamo vissuto anche il periodo in Iraq, ci sono stati dei rapimenti, c'è un gruppo di persone rapisce una persona, vuole ricattare oppure vuole avere una risposta, come quello che è di sprigionare questo uomo da parte di Hamas, eccetera. Non c'è stata nemmeno l'attesa di qualche giorno per ottenere la risposta, quindi questo ci fa pensare entro 30 ore è stato assassinato a gratis così, senza nemmeno dare spazio né a un intervento internazionale, nemmeno a Hamas stessa, nemmeno altri. Quindi ci fa pensare anche all'assassinio di Giuliano Camiste, quello che faceva teatro a Jinin, tutto questo così, in questa rapidità. Puzza di bruciato tutto quanto dietro, cioè gli ultimi due settimane, anzi da gennaio in poi, stanno succedendo queste cose in modo incredibile, quindi tutto questo ci fa pensare oggi, tutti questi meccanismi assassini mirati, cioè, questo ci fa solo rabbia e quindi questo ci dà solo la forza a continuare a lottare a fianco al popolo palestinese, a fianco a tutti i popoli per la loro libertà. Vi ringrazio. Vincenzo Vita. Per chiarire, non vorrei che nasca un equivoco, non è un mio un intervento politico, tantomeno a nome per conto di un partito, è perché qualcuno di noi, sensibile e colpito rispetto a questo dramma, sta preparando un'interrogazione parlamentare affinché il governo perlomeno venga a rispondere, venga a dire, venga a prendersi una qualche responsabilità. Quello che è successo è di tale gravità che non può essere solo un problema di coscienza, è un problema politico di primissima grandezza. La Palestina dimenticata, Gaza, ecco, tra l'altro abbiamo ricostituito l'associazione di amicizia con la Palestina, non c'era più in Parlamento, l'abbiamo ricostituita, c'è un gruppo di noi, al momento siamo molto pochi, ma spero e ci auguriamo, credo tutti quanti, che possa aumentare il numero di coloro che aderiscono. Quindi sono qui a dare non solo solidarietà, ma anche a prendere questo piccolo impegno. Un'interrogazione non è niente rispetto al dramma, però può forse essere utile per risollevare nel dibattito politico un tema che è stato completamente rimosso. Ecco, grazie e ci rivediamo. Patrizia Cecconi, che è presidente dell'Associazione Amici della Mezzaluna Palestinese. Buongiorno. Cos'era che dava tanto fastidio di Vittorio? Questa è la domanda che io mi facevo da qualche giorno, da quando purtroppo ero io e un'altra compagna, eravamo convinte che Vittorio non avesse più molti giorni, se restava a Gaza. Che cosa dava fastidio? Vittorio era la voce che da Gaza interrompeva il silenzio dei mass media italiani e non solo. Certo, lo interrompeva soltanto per coloro che poi in un certo giro potevano prenderla quella voce. Però si sa, il tantam, il passaparola, in qualche modo qualcosa, almeno una inclinatura la produce. La convinzione che Vittorio era arrivato al limite l'abbiamo avuta quando hanno ammazzato Giuliano. Cos'è che dà fastidio a Israele, da sempre? Cos'è che dà fastidio al sionismo? Lo diceva Golda Meir, lo diceva anche Ben Gurion. Ci fa più male un poeta o un intellettuale che delle bombe. E allora fanno sicuramente meno male a Israele, anzi gli servono molto come propaganda, quattro razzetti, ma gli fa molto male una lotta politica intelligente, basata sulla non violenza, basata sull'intelligenza, come quella che faceva Giuliano, come quella che faceva il nostro Vittorio. Vittorio ci ha ricordato quante ambulanze della nostra Mezzaluna Rossa sono state ammazzate, massacrate, schiacciate dai singoli dei carri armati durante il piombo fuso. Non faceva molto bene questa cosa. Ho avuto purtroppo il masochismo di sentire Pagliara prima di uscire di casa. Pagliara ha fatto una prima parte di intervento in televisione che sembrava fosse, non so, gli avessero dato una pasticca di sincerità, però si sa, è nella coda il veleno. Pagliara ha concluso con queste parole: il paradosso di questa vita, di questo giovane, generoso, buono, eccetera, eccetera, il paradosso di quest'uomo che ha vissuto per la Palestina è quello di essere stato ammazzato proprio da un gruppo islamico. Attenzione, è come se avesse detto proprio da un gruppo palestinese, legando il gioco del gruppo islamico, senza specificare peraltro quale gruppo islamico, al discorso della Palestina palestinese. Allora io dico, l'integralismo religioso, quale che sia, islamico, cristiano, ebraico, l'integralismo religioso è quasi una malattia. È come dire, avere un cane drogato. Come fai il cane drogato a trovare la droga? Ci vuole poco. E allora io dico, sono stati salafiti ad ammazzare Vittorio, io ne sono sicura. Sono stati questi quattro, perché di più non sono, salafiti esasperati, esagitati, integralisti, folli nella loro così interpretazione della religione. Gli hanno sbandierato davanti un qualcosa, e quindi come un cane da tartufo o da droga che si butta sulla droga perché gli è stata indicata, così i salafiti sono stati la mano armata, mi assumo responsabilità di quello che dico, di Israele. Io sono convintissima che Vittorio è stato ammazzato nel modo più sottile, più purtroppo criminalmente intelligente possibile, non da una bomba, poteva essere un effetto collaterale, quest'altra cosa terribile, no, che ci siamo inventati. No, è stato ammazzato in modo sottile, da sicari, probabilmente inconsapevoli della logica del Mossad, della logica del sionismo, della logica di Israele. Io dico, non dovranno credere che Vittorio è morto. Vittorio ha espanso la sua, in qualche modo, la sua vita attraverso tutti noi. Questo è quello che dovremmo fare. Dovremmo ricordarlo con le sue parole, con le sue interviste, con i suoi filmati, con il suo libro, con tutto quello che sarà possibile. Portiamo Vittorio con noi, come diceva prima Diab. Grazie. Patrizia è la compagna che stamattina alle 4 mi ha svegliato con un messaggio concepito così: svegliatevi piangendo, hanno ucciso Vittorio. E noi Vittorio lo commemoreremo martedì prossimo, la rete romana di solidarietà del popolo palestinese lo commemorerà. E poi aggiungo che noi siamo qui e resteremo qui fin quando il sottosegretario Letta non ci riceverà, perché abbiamo da chiedergli alcune cose. La prima è che il governo si pronunci su questo misfatto, che come diceva Patrizia rientra nel contesto dell'occupazione illegale, illegittima, arbitraria della Palestina e di Gaza da parte di Israele. E poi che noi torneremo a Gaza. Un gruppo di noi si sta preparando per andare a Gaza, come diceva Marco, e dobbiamo avere la garanzia del governo italiano che tuteli i cittadini italiani che andranno a Gaza, e dovrà assumersi l'impegno di farli passare dall'Egitto perché non ci siano impedimenti all'ingresso a Gaza. E poi gli chiederemo se ci sarà un'altra iniziativa a tutela dei palestinesi, in particolare dei pescherecci palestinesi che tutti i giorni sono oggetto di attacchi a colpi di mitraglia da parte delle motovedette israeliane quando si recano a poche distanze dalla riva per pescare, perché c'è un naviglio con dei nostri militanti a bordo che staranno lì a testimoniare quello che avviene e a difendere questi inermi pescatori di Gaza. E poi gli diremo che la flottiglia partirà anche la nave italiana, e che il governo italiano deve tutelare i pacifisti, gli attivisti anche italiani che saranno a bordo della flottiglia. La conferenza stampa finisce qui con la speranza che non ci sia bisogno di altri morti, perché il dramma del popolo palestinese venga alla ribalta. C'è Alessandra che leggerà un breve passo da Restiamo Umani di Vittorio, che è il testamento che Vittorio a questo punto ci ha lasciato. Allora, scusate, devo cercare il passo che l'ho appena perso. abbiate un attimo pazienza. Questo è un pezzetto che Vittorio ha scritto il 13 di gennaio del 2009. Per strada fisso il mio compagno Alberto, si riferisce ad Alberto Arce, che è un altro attivista dell'International Solidarity Movement, che come con Vittorio stava spezzo un occhio, si avvicina e gli sussurro in un orecchio: se ritiene plausibile che la telefonata intimidatoria sia stato un segnale per noi due soli, dopo la scoperta di un sito statunitense di estrema destra che ci ha messo una taglia sulla testa, allertare i militari dell'IDS per colpire l'ISM, numero da chiamare per localizzare i covi di Hamas con i membri dell'ISM, dall'America chiamate lo 011 972 258 39749, da altri paesi non digitare lo 011, aiutateci a neutralizzare l'ISM, International Solidarity Movement, che è ormai parte integrante di Hamas fin dall'inizio della guerra, bersaglio ISM per le forze aeree israeliane e truppe di terra dell'IDF, invito all'omicidio di Vittorio Arrivoni, che attualmente assiste Hamas a Gaza dal sito www.softeason.com. Non prendetevi la briga di visitare questo sito, né tantomeno di linkarlo ai vostri blog. È solo una testimonianza sociologica da tramandare ai posteri. Analizzando questi tempi, il futuro pronuncerà la sua sentenza inappellabile su come l'odio fosse il sentimento più puro, il livore verso il diverso muovesse eserciti e fosse il collante di intere masse di uomini. Non è necessario che i miei detrattori e chi mi vorrebbe morto compongano quel numero. L'esercito israeliano sa benissimo dove trovarmi questa notte. Sto sulle ambulanze dell'ospedale Katz di Gaza City e siamo umani. Aggiungo un'informazione che non ho controllato né verificato, ma c'è qualche radio che ha comunicato che i salafiti hanno smentito di essere gli autori dell'uccisione. La conferenza finisce qui. E se volete, se non è retorico, ma la lotta continua. Pronto? Pronto, sì. Così. Ci sentiamo, ci sentiamo dopo. Sì, si è sentito benissimo. Va bene.